A Cocondo te la stai cercando, eh? Poi non te lamentami. Chi te più a parte domani viene a questura a casa tua. Meglio che non muro a quella bagassa di tua moglie, perché domani arrivano a casa tua. No, non la fare modulare mi quella vacca di tua madre, hai detto giusto. Quella vacca di tua madre non la fare modulare. E tu vattene via che tu c'hai l'AIDS, vattene via. Falcone mi chiudisci. La famiglia povera, hai sentito che sono andato a scuola? O non hai sentito? Vuoi che rivada di nuovo a fate una bella denuncia? Eh? Vuoi che rivada un'altra volta a romperti i coglioni? Ci faccio, perché non ci faccio, c'è il coraggio, no? Che c'è paura? Fino adesso, scuola, porco, maiale, figlio di bagassa. Ah, bruciato, cos'è il 40? Comunque, fa quella rete che mi fai schifo.